La situazione qui in Spagna è preoccupante, come sapete la Spagna è il secondo paese europeo per numero di contagi e per numero di vittime. Ieri, i dati di ieri parlavano già di più di 11.200 contagi e 500 vittime, ma mentre le vittime più o meno, che sono moltissime, sono affidabili, i contagi è già noto che sono moltissimi di più, perché per il momento la politica del governo spagnolo è quello di fare i test solo nei casi più gravi, tant'è così che infatti la metà dei contagiati sono ricoverati in ospedale, quindi questa è una percentuale altissima rispetto agli altri paesi, vuol dire che in realtà i contagiati sono moltissimi di più e la situazione certamente è molto preoccupante, tanto è così che il governo continua a prendere misure che alcuni considerano addirittura insufficienti data la gravità della situazione, ma sono misure appunto di contenimento, come sapete, delle persone nei propri domicili, ma qualcuno vorrebbe proprio che si blocchi cassero tutte le attività produttive. Il governo ieri ha fatto un decreto con tutta una serie di misure per proteggere i lavoratori e anche le imprese, addirittura permette di ridurre la giornata di lavoro del 100% per poter rimanere in casa, però molti vorrebbero che il governo proibisse l'apertura di qualsiasi attività economica che non fosse essenziale. Con essenziale sostanzialmente sono gli ospedali e poco più, diciamo, i servizi di pulizia delle strade e cose così. La situazione è grave, per esempio l'esame di maturità è già stato sospeso e quindi, diciamo, si prevede che le difficoltà dureranno abbastanza tempo, certamente speriamo non fino a giugno, ma se anche perdere uno o due mesi di scuola comunque è moltissimo, e quindi, diciamo, quello di cui stiamo parlando è questo. Ieri anche altra notizia, hanno annullato una festa molto importante per i catalani, che è la festa di San Jordi, che è il giorno in cui il resto del mondo festeggia la festa del libro, ad aprile, 23 aprile, quindi stiamo già parlando di più di un mese di distanza e anche quella festa lì è stata annullata, quindi i decisori politici hanno chiaro che questa situazione di emergenza si prolungherà moltissimo tempo e naturalmente questo è preoccupante qui in Spagna come in qualsiasi altro posto del mondo, perché rimanere in casa tanto tempo non è facile, ecco, e i decisori politici qui come in qualsiasi altro posto sono costretti, diciamo, a prendere decisioni molto difficili, molto impopolari, e forse, come critica qualcuno anche qui, sono state prese con un po' troppo ritardo. Però la Spagna sembra essere stata la prima ad aver avuto il coraggio di dire requisiamo la sanità privata. Diciamo, questa questione in effetti è interessante, l'Italia ha impiegato molto più tempo per prendere questa decisione. In realtà in Spagna esiste una legge che finora non era stata mai applicata, è stata applicata una volta in parte nel 2010, ma mai nella sua totalità, che è una legge, diciamo, che riprende, nella Costituzione spagnola del 78 è prevista la possibilità che ci sia uno stato di allarme, uno stato di emergenza e addirittura uno stato di assedio, no? Sono tre stati, diciamo, pericolo per la nazione, il più leggero dei quali appunto è lo stato di emergenza in cui adesso siamo, e una legge successiva dell'81 prevedeva tutta una serie di dettagli rispetto a come si configurano queste tre situazioni, e nello stato di allarme in cui siamo adesso non solo si prevedeva molte delle cose che poi sono state appunto decise dal governo sabato scorso, ma esplicitamente c'è scritto che, proprio come prevede peraltro la Costituzione spagnola, tutto deve essere al servizio del bene pubblico, quindi in particolare la legge lo specifica, anche la sanità privata, ma anche le industrie, cioè, diciamo, il governo in questo momento ha il potere, l'autorità di requisire e confiscare qualsiasi cosa eccetto i domicili privati, per cui se il governo valuta che un ospedale privato è necessario per poter fare fronte all'emergenza, lo requisirà. Se decide che un'industria deve fermarsi e iniziare a produrre una cosa diversa da quella che sta producendo, lo può fare. Per il momento semplicemente la questione della sanità privata, il ministro della sanità spagnolo ha deciso che dà a tutti i ministri regionali, diciamo, agli assessori regionali alla sanità, il potere di decidere in ciascuna delle comunità se è necessario requisirne qualcuno, e gli dà, diciamo, l'autorità per farlo immediatamente. Infatti qui, per esempio, in Catalogna, dove sono io, il fuoco del contagio in un paese che si chiama Igualada, e lì già è arrivata la richiesta del comune alla Generalità, che è la Generalità del governo catalano, di poter requisire una clinica privata che ha 90 posti letto nel caso l'ospedale di Igualada fosse saturato, cosa che sicuramente avverrà tra poco tempo, insomma. A proposito di Catalogna, ma anche di Paesi Baschi, leggevo che c'era stato qualche malumore per la centralizzazione delle funzioni al governo spagnolo. Sì, continuano a esserci questi malumori perché, insomma, sappiamo che qui c'è una ferita che fa male, quindi diciamo, in realtà, così, dal mio punto di vista, questa è la mia opinione, sono un po' delle preoccupazioni secondo me infondate, perché è ovvio che siamo in una situazione di emergenza, questo non è la normalità. Il problema è che siccome veniamo da un lungo periodo in cui il governo spagnolo ha cercato, quando c'era il Partito Popolare, in maniera diciamo disonesta, di riaccentrare tutta una serie di decisioni e di funzioni, allora questo arriva in un momento in cui soprattutto i Paesi Baschi e la Catalogna hanno un po' il dente avvelenato. Quindi leggere che tutte le decisioni sanitarie sono accentrate, cosa che non era in realtà mai accaduta, perché qui da moltissimi anni, come in Italia, la sanità sono competenze locali, regionali, allora questo tipo di decisione ha generato qualche malumore. Secondo me è molto strumentale questo tipo di malumore, perché è inevitabile che le decisioni debbano essere prese in questo contesto a livello centrale, però sì, è vero, ha generato dei malumori, vedremo che succederà quando passerà questa fase, che peraltro sarà anche piuttosto lunga, non sarà semplice ritornare alla normalità. I cittadini come stanno reagendo? Stanno rispettando le restrizioni? Come si stanno comportando? Ma io direi che in una grande percentuale sta iniziando a capire che la questione è seria e che bisogna seguire le indicazioni. Peraltro ci sono, ovviamente, come sempre, come inevitabile, ci sono persone che lo prendono molto più alla leggera, ma secondo me il vero problema è che sono gli impresari, perché ci sono un sacco di aziende che non hanno avuto la voglia o il coraggio di prendere decisioni radicali come far rimanere a casa i propri lavoratori, e quindi un sacco di gente è costretta ad andare a lavorare e molti ci vanno in autobus o in metro, e questo è un bel problema perché soprattutto lunedì, adesso ieri sembra che la situazione fosse un po' migliorata, però lunedì a Barcellona e Madrid le metro erano pienissime, e questo naturalmente è assolutamente sconsigliabile, per questo che da molti arriva la richiesta che al governo di fermare tutto. Naturalmente fermare tutto ha un costo economico stratosferico, e quindi i governi sono molto poco propensi a prendere queste decisioni così radicali e contano di facilitare il più possibile la vita a chi voglia prendere questa decisione, ma per ora non è stato proibito. Non escludo che in qualche momento non si arrivi a uno scenario, diciamo, un po' cinese, ecco, in cui dovranno proprio stare tutti a casa per forza.